altre domande, grazie. Permiamo di passare, grazie, si può accomodare. Allora, ora... Arcangeli. Della responsabilità morale e giuridica che assumo per la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è la mia voce. Beh, allora come si chiama? Vice brigadiere Arcangelo di Gianluca. Allora, vice brigadiere di Carabinieri? Sì. In servizio? In servizio presso il reparto operativo, libero informativo di Roma. Anche all'epoca? All'epoca, attualmente. Attualmente all'epoca? Sì, sì, allora. Beh, allora, prego. Allora, ricorda, brigadiere, dove ha svolto servizio, se ha svolto servizio in occasione della manifestazione No Green Pass a Piazza del Popolo a Roma il 9 ottobre 2021? Allora, faccio una piccola premessa. Io ero arrivato al reparto da un mesetto circa, quindi non conosco nessuno di fatto, non ho mai visto nessuno di persone. Eravamo, ricordo che noi a questo reparto, nel reparto che si interessa delle manifestazioni, monita eventualmente in borghese qualunque difficoltà che c'è, quanti gerenti. Noi eravamo a Piazza della Bocca della Verità in occasione della manifestazione dei Green Pass, manifestazione a Piazza della Bocca della Verità, insieme al maresciallo Bartoloni, che era il capo squadra, noi si chiamava il comando della pattuglia, e noi praticamente ci siamo spostati da lì verso le 4:30 più o meno, perché avevamo visto muovere che stavano andando, una massa di persone che erano mosse da Piazza del Popolo stavano andando in direzione la sede della CGL. Quindi noi ci siamo anticipati ed è partito pure un piccolo contingente di carabinieri in divisa che è giunta sul posto. Noi siamo arrivati prima di loro, siamo arrivati, non c'era ancora nessuno, sono giunti i carabinieri, siamo messi in posizione, abbiamo visto giungere una massa di persone che salivano da un lungo torto da Piazza del Popolo a salire sopra, quindi noi stavamo lì aspettando per capire se loro cosa avessero intenzione, se era una cosa dimostrativa che non arrivo o no. Poi ho visto che tutti quanti verso i colleghi, che erano una decina, 12, che erano veramente pochi, che funzionavano il GPS, hanno provato a mettersi in linea molto prima della strada. Che è Corso Italia, non vado errato, e hanno provato a passare e la massa li ha praticamente, sono riusciti ad andare oltre, hanno raggiunto le scale della cerzata della terza della sede e hanno cominciato in qualche maniera a muoversi in massa, e poi noi che siamo del bel borghese insieme agli altri ci hanno poi raggiunto, abbiamo continuato monitorare dall'esterno che stava succedendo. Poi, quindi aspetti, mi lasci capire, quindi lei era comandato di servizio? Sì, io comandato di servizio, tutti gli effetti. Comandato di servizio? Sì, sì, sì. Era in borghese? Sì, era in borghese. Insieme ad altri? Sì, eravate una squadra? Sì, alle dipendenze, chi era il vostro dirigente a cui dovevate fare riferimento? Ma noi siamo... superiore in grado, chi era? Noi c'avevamo il maresciallo Bartoloni, noi c'avevamo... Sì, il maresciallo Bartoloni, però la situazione di ordine pubblico, anche il maresciallo Bartoloni poi fa riferimento a chi? Chi era? C'era sul posto, era aggiunto il funzionario, non ricordo il nome, perdonami perché non conosco tutti, c'era un funzionario poi di polizia e c'era la squadretta del carabinieri con l'ufficiale dell'arma. Se era un tenente o un capitano che comunque era lì col battaglione che era raggiunto, quindi comunque facciamo capo a noi. E quanti eravate, ha detto? Noi la squadra eravamo 4-5 in borghese, 4-5 in borghese, e invece gli altri erano il battaglione, quello che viene sempre con gli ernetti. E adesso non ricordo 4, 3, 5, eravamo una squadretta piccola. E qual è il senso di fare, perché io non lo so, qual è il senso di stare in borghese e non in divisa? Noi siamo in divisa alle manifestazioni perché preveniamo e monitoriamo qualunque cosa potrebbe accadere a soggetti conosciuti a livello informativo. Noi siamo alla pari informativa dei carabinieri e come la DIGOS. Ho capito. Va bene. Bene, allora vado avanti. Cosa è successo? Nella confusione... No, se poteva dare i nomi di questi altri componenti della sua squadra. Ma guardi, ma sono Bartoloni, poi gli altri, io sono lì da poco, gli altri c'era Bartoloni. Quindi in totale eravate 5, mi ha detto. No, gli ho detto, eravamo 3-4. No, in Borghese. In Borghese mi sono mosso io con il maresciallo Bartoloni e siamo giunti sul posto. Poi con noi, penso degli altri, c'è scritto qualcosa, perché io poi mi sono distaccato. Cosa è successo? Quando noi poi ci separiamo nella massa, diciamo, quando vediamo pattuglie in quella volta, nell'essere mischiati per monitorare la distanza alla manifestazione, facciamo monitoriamo anche con un video, con attrezzature, per cercare di capire cosa sta succedendo, se c'è qualcosa che può succedere. Poi che succede? Che si sono mossi tutti in massa e io mi sono trovato, e anche perché un po' lo posso dire, un po' di esperienza, perché la prima volta che sono stato in questo tipo di attività, facevo altro, era reparto da un mesetto, quindi non ero. Quindi mi sono ritrovato all'interno della massa, ero saltato la porta e quindi sono stato dentro, mi sono trovato dentro. Ora mi trovavo in una posizione in cui dall'esterno c'erano i nostri colleghi del battaglione. Sei trovato dentro, dove dentro? Nella massa che entravano tutti, sono andato pure io dentro. Ho chiamato poi, ho detto, ragazzi, sono isolato, sto dentro, che faccio? Praticamente collocazione, proprio perché stavo dentro, c'era un vecchio telefono che mi metteva, ho provato a fare dei video, quindi io che poi ho mandato soltanto a capo squadra, giusto per dire cosa sta succedendo dentro. Chi è? Il capo squadra chi era? Ho messo il maresciallo Bartoloni, infatti dall'altro c'è il maresciallo Bartoloni. Bartoloni, sì. E, fatto questo, poi... Scusi, una cosa, ma dentro intende che si trova nella massa di persone? Io, nella massa, non dentro la CGL. Poi ci entra. Entra. Aspetta, No, nella massa. Ho capito, andiamo avanti. Poi mi sono ritrovato all'interno della struttura, perché quando la massa... All'interno della CGL? La CGL nell'albero principale. Però prima di andare dentro, c'è una prima fase, no? Allora, ci racconti la fase precedente. Adesso lei non mi dica che stava nella massa, non sentiva e non vedeva. Perché non è possibile. Sono pure scarpe. Sentiva e vedeva quando stava nella massa? Sentiva e vedeva quando stava nella massa che cosa succedeva? C'era gente che stava tutti facilmente. Ma ha visto che cosa è successo? Ha aperto qualcuno la porta dalla CGL, ha detto volete entrare gentilmente? Che è successo? Allora, nella grande confusione, il passaggio io personalmente... Ah, non l'ha visto? Nella massa di entrata... Comunque io stavo comunque alle spalle, quando siamo entrati dentro, ci siamo trovati io quattro con volto nella massa all'interno, loro avevano già aperto la porta. Ma quindi lei ha visto che è stata una apertura violenta, che c'è stata la violenza, che non è questo tipo di visto. La parte iniziale che è entrata hanno cominciato a sfondare, a cercare di aprire il portone, hanno fatto un'azione che però veramente era una massa umana di persone, io non conosco nessuno, quindi posso immaginare nella grande confusione che c'era. Hanno usato violenza per aprire, sono entrati da dove? Dalla porta o dalla finestra? Allora, la porta sta. Io inizialmente dei video poi successivi. Sono entrati dalla una finestra laterale, mi sembra a sinistra. Sì, vabbè, però lei non mi deve raccontare quello che ha visto dal video successivo. Lei mi ha detto stava nella massa. A un certo punto mi sono ritrovato nella selva oscura. Mi sembra. Sì, sì, sì, allora, si è ritrovato dentro una CGL. Allora la domanda è: come sei ritrovato dentro la CGL? La prima parte è entrata dalla finestra laterale a sinistra. E poi da lì. Però questo lei l'ha visto dai filmati, dopo l'ha visto che entravano dalla. Noi dall'esterno abbiamo visto tutta la scena che stavano in qualche maniera azionando nei confronti dell'ingresso facciale. E quindi c'è stata violenza, ha usato violenza per entrare. Ok, vabbè. Una volta entrato dentro mi sono trovato in difficoltà perché è arrivato il nostro battaglione, siamo riusciti a mettersi davanti. Quindi, battaglione quelli in divisa. Esatto, quindi all'interno ci siamo ritrovati finalmente dopo che la massa ha fatto, non so chi perché poi non conosco nessuno, sono andati tutti quanti gradualmente, dopo hanno fatto chi ha buttato i quadri a terra, chi ha rotto il computer, chi ha fatto un po' di casotto. Poi sono riusciti tutti, perché praticamente il nostro battaglione, insieme ai rinforzi che dall'esterno non è in grado di sapere, c'era Bartoloni dall'esterno, sono riusciti a chiudere, diciamo, a proteggere l'ingresso. E noi, io dall'interno, insieme ci stava il funzionario DPS, c'ero io, c'era l'ufficiale, penso che il battaglione della squadra dei carabinieri, che viene sempre del tenente o l'ufficiale che può essere il capitano, che non ci conosco perché non sono battaglioni di supporto a noi, e i rispettivi collaboratori, penso la pista, non abbiamo fatto altro che eravamo preoccupati, ero inversamente preoccupati, perché ho detto uscito non possiamo andare, se loro sfondano dentro dobbiamo provare una via anche di fuoco, quindi di solito abbiamo controllato se c'era la possibilità di uscire da qualche parte, ma è tutto finito così. Allora, scusi, perché ma io sto raccontando quello che ricordo. Sì, perché io. Sì. Allora, sì, prego. Comunque ci sono. C'è il filmato, c'è il minutaggio preciso, sì, in cui entra, in cui esce, poi glielo posso anche ricordare. Sì. Allora, ma da come l'ha raccontato lei, come se fosse stato spinto dalla massa ad entrare, non sia stata una sua scelta precisa di voler entrare. Mi sono ritrovato dentro perché la massa andava. Sì, per esempio, ci sono degli scalini, poi non è sì, che. Sì, sì, sì. Non è che. In realtà dentro quante persone c'erano? Che posso dire? 10. Una massa interna di persone che erano entrate, io non glielo. Quanto posso dire? Se ho fatto tanto tempo che posso ricordare? Io posso ricordare di aver fatto il video di qualcuno che stava danneggiando la parte dei computer, erano tutti danneggiati. La domanda è, senta, lei deve ascoltare, sì, ha detto quante persone potevano essere state dentro? Dica. Un ordine di grandezza, 100, 50, 10, 20? Non è che chiede precisamente. No, sto cercando di capire. Oh, che croce! Forse 30, 50, adesso non 30, 20, 30, 20, 30, 20, 20, 20. Non ho un'idea, non voglio 30, dire. Quindi lei viene spinto dal flusso delle persone dentro. Vabbè. Io ho fatto quella battuta, su. No, ma i filmati dimostrano il contrario, per carità. C'ha ragione. Allora, scusi, brigadiere, poi andiamo un po' con ordine. Allora, intanto lei è entrato. Sì. Aveva il volto coperto dalla mascherina? Io la mascherina non ricordo se l'avessi, devo dire. Una mascherina chirurgica? No, mi deve dire però che cambia se lui aveva la mascherina o non l'aveva. Non ricordo. Ma può essere anche una questione di sicurezza, non farsi riconoscere. Ma che cosa ci interessa? Ma lasci perdere, la domanda non è messa, andiamo avanti. Io sono dentro e... Andiamo avanti, mi interessa. Sì, arriva o no la mascherina, avvocato? C'è una seconda... Allora, lei si ricorda di aver fermato una persona all'interno della sede della CGIL? Vestito di jeans, che indossava una mascherina, una persona che non conosco, che ho visto che aveva qualcosa nel giubbino occultato, adesso non so che cosa potesse essere, ma che cosa hai fatto, che cosa che c'hai, e io l'ho tolta e mi sembrava, adesso non ricordo bene, era un laccettino, no? Adesso non ricordo, c'era una cosa di carta tipo una mega di tipo una tessera tipo io della sede, qualcosa, non lo so, io l'ho preso, l'ho tolto, perché detto che ci deve fare questa, da dove viene? Cioè, non ho capito, una tessera di una sede e lei gliela toglie? C'aveva questo cartoncino, stando manifestando all'interno, aveva tolto tutte le cose, hanno tolto tutto. Pensando che l'avessero. Allora, scusi, no, Presidente, lei per farsi consegnare questo oggetto, sì, io so la sua versione, sì, di fatto, si è qualificato come esponente dell'arma. No, io ero preoccupatissimo all'interno, perché ho detto se questi mi riconoscono, perché mi sono trovato dentro, spagnolo, se vado fuori, quelli... Ma scusi, si fermi. Allora, ma se succede una cosa a me, no? Che io entro dentro la CGL, mi prendo una cosa della CGL e lei viene e dice che hai fatto, dammelo, ma io lei, ma neanche la calcolo. Se si qualifica, ne possiamo parlare. Ma se non si qualifica, lo sai. Nello specifico, io la prendo, nella... ma se ne vado a quel paese. Ho detto, ma che c'è? Ma dammi queste cose. Ho detto, e l'ho presa e ti ho detto, che tipo aveva lei per intervenire con questa persona? Mi scusi, perché ho visto che era uscito da quella stanza, cioè aveva qualcosa qua sotto. Non ci siamo capiti. Cioè, lei ha detto che non si è presentato, non si è qualificato. No. Oh, quindi non aveva nessun titolo per fare quello che ha fatto. Ci siamo, capito? Sì, in quel momento mi ero preoccupato, cioè, perché si era preoccupato, ma abbia pazienza. Se uno che si preoccupa, si qualifica e dice fermi tutti, basta, interrompete l'azione criminosa che sta in atto, in onda. o no? Allora, aveva titolo perché lui stava là in servizio, diciamo, ma non si è qualificato. Che ha scritto, certo, bene, che aveva titolo, certo, che aveva titolo. In quel momento, certo, però, c'era un'attenzione particolare. Si è qualificato di fronte a quella persona. Mi sembra strano la reazione di quella persona. Quello gli ha restituito senza questa cosa. Io poi ho detto, quando mi sono assicurato che comunque se ne stavano andando tutti, nel senso che comunque c'era qualcuno, penso, che diceva uscite, perché poi. Ma infatti, che dicevano all'interno? Di uscire. Che cosa dicevano questi manifestanti all'interno della città? Ma gridavano, c'era una gran confusione, gridavano, hanno tirato nella segreteria, hanno rotto il monitor, hanno buttato le cose, c'era un corridoio, tutti quanti buttati a terra, diciamo il piano di terra hanno in qualche maniera danneggiato tutto. Chiedo scusa. Quindi lei, stando sempre alla sua versione dei fatti, assiste a delle condotte di danneggiamento e non cerca di bloccarlo. Aspetti, la domanda. Arriva la domanda. Aspetti. Mentre la sua attenzione in quel marasma viene colpita da un oggetto al di sotto della giacca di una persona che è un perfetto sconosciuto, dopodiché lei riesce a farsi consegnare da questo sconosciuto, senza qualificarsi come appartenente dell'arma, un oggetto che lei dice essere una tessera della CGL. È così, è corretto? Sì, era qualcosa che non c'è di niente, non ricordo che cosa c'è più. Io poi l'ho preso e l'ho messi tutti sopra, si vede, penso, l'ho messi tutti sopra a una base rossa, sapete, quelli di solito che hanno incendio, cosa ho appoggiato lì, perché ho detto era un scivolo, ti ripoggio qui. Allora, quindi lei ha ritenuto in quel momento che questo oggetto che si fa consegnare, senza qualificarsi come carabiniere, fosse il provento di un furto commesso lì. Penso che sia per uscire. Aveva, adesso non ricordo, era un cartellino tipo che loro usano fotocopiati per era stato sottratto, lasciamo perdere il furto perché è una qualificazione giuridica, no. Poi doveva fare la procura. Era stato sottratto, ha presunto che questo oggetto fosse stato sottratto. Vabbè, dalla sede. No, per capire. Allora, domanda successiva è se poi, tornato in caserma o presso il comando, poi hai fatto una denuncia per questo furto. Ma contro chi, se nemmeno lo conosceva che era un perfetto conosciuto? Io non conoscevo nessuno. Allora, io facciamogli vedere le immagini. Io l'ho chiesto espressamente, poi magari finisco le domande e poi ci sono delle immagini che vorrei mostrarvi. Vabbè. Poi il perfetto sconosciuto è quello che ha aperto la porta a tutti quanti. Questo chi lo dice, scusi? E i documenti, i filmati, Presidente. Io non lo so. Lo sappiamo, come no? Allora, ci sono i filmati, lo ricordo a me stesso. Ma però ascoltiamo, non sto discutendo. No, la rilevanza, l'ho fatto solo per spiegare la rilevanza della domanda. Ti ho spiegato? Non è che lo dico io, sono le immagini acquisite al facciclo. Lei ha visto chi ha aperto la porta? Io no. No, lui non poteva vederlo. Non potevo perché in quei tempi non. Allora come fa a dire che io non ho visto nessuno, io ho soltanto visto la massa che è entrata e che poi dopo ha fatto così. No, i filmati che sono acquisiti al fascicolo, la clip W1, il filmato che riprende questo soggetto con i jeans che è la mascherina che entra dalla finestra e poi riesce senza forzarla ad aprire la porta dall'interno. Va bene, però poi questo ci sono già documenti acquisiti. Poi sentiremo anche il dottor D'Amore che spiegherà. Allora, lei è dentro la sede della CGL e fa dei filmati. Sì. Quanti ne ha fatti, se si ricorda? Non ricordo perché io c'avevo il tempo a me, che comunque qualche filmato l'ho fatto così e non l'ho girato a nessuno, ho girato soltanto all'ufficio, al mio referente fuori, dice sono all'interno, che faccio? All'interno faccio pure una telefonata, dice sono all'interno, sono in fiotta, faccio entro, esco, qua, e io l'ho mandato fuori. E loro l'hanno visionato. E poi dopo è stato tutto all'ufficio, poi non ho fatto la parte successiva. Ma scusi, non ha mi mai... Mi sono trovato così, là dentro, proprio... Allora, di questi filmati... Ecco. Di questi filmati. Cioè, l'unica cosa che doveva fare, perché lei che stava a fare lì, non per manifestare, no? Che faceva? L'unica cosa che doveva fare. Monitorare, ho fatto dei video per quello che facevo Ma mi scusi, ma questi video, poi, quando è tornato in caserma, non ha redatto e sottoscritto delle annotazioni di servizio, una annotazione di servizio? Sono stati passati all'ufficio. può chiamare pure Bartoloni che le ha prese. Vabbè, Bartoloni poi si potrebbe pure chiamare. Ma... Che vuol dire sono stati passati? La domanda, allora lei si cerca sempre di sviare la domanda. Ha detto, lei quando è tornato in ufficio ha poi redatto una relazione nella quale ha rappresentato quello che è successo e la sua attività, se eventualmente ha fatto un'attività? È stata fatta la relazione completa, tutte le informazioni. È stata fatta, chi l'ha fatta? L'ha redatta Marcello Bartoloni. L'ha redatta Marcello Bartoloni? Ma lei stava lì, non Bartoloni. Allora, no, la mia è stata fatta. Oh, no, questo la mia è stata fatta. No, lei l'ha fatta sì, di fatto. Quello che è successo, che allora, l'ha data a Bartoloni. Sì, è stata fatta. È stata no, fatta, e non ce l'abbiamo agli atti. E non è nel fascicolo, però un attimo, allora lei quando è che ha fatto questa relazione? La data? È stata fatta a distanza di tempo perché quando stavo, noi abbiamo scritto tutta la... Quanto di tempo? Un mese, un anno, un anno e mezzo? Non ricordo adesso, noi abbiamo fatto una relazione, la data non la ricordo. Qualcosa, 18 febbraio 2023? Probabile, 18 febbraio 2023. Ma senta, adesso lei mi vuole dire che fa una relazione di servizio a 2 anni dopo dei fatti? No, perché all'epoca dei fatti, quando fu fatta tutta questa cosa, la parte scritta che io era stata redatta da Marcello Bortolone, che fa di solito l'informativa tutti insieme, perché io avevo soltanto operato in passato. Senta, ascolti, non mi faccia no. Allora, la relazione di servizio si fa subito dopo, subito, e su questo non si discute, perché se lei lo fa dopo 2 anni non si ricorda un bel niente. Ma l'altro è stato quindi fatto, non mi vuol far credere che la relazione l'ha fatta 2 anni dopo, perché questa cosa è assolutamente irragionevole e non è così. No, Maresciallo Bartolozzi intanto avrà potuto scrivere in quanto lei ha fatto la relazione, perché lei che stava lì e ha visto se la porta è stata aperta, se qualcuno l'ha aperta e tutto quello che vuole. Lo avrà arricchito, innamorato di quello che vuole lei. Sì. Allora la domanda è, questa relazione lei l'ha fatta e l'ha indirizzata al maresciallo Bartolozzi? Sì, è stata fatta. Quando? Ma gli altri li facciamo insieme. È stata e fatta quando è stata fatta questa relazione? La sera, che per il giorno dopo avevo scritto tutto, è stata fatta una relazione. È stata fatta nel 2021. Sì, con la e perché sta dicendo nel 2023? No, perché quello l'abbiamo fatta anche dopo, è stata fatta dopo, perché abbiamo specificato anche che cos'era quel come si chiama, quell'eventuale tesserino. Siamo andati a verificare che quei tesserini non avessero la possibilità di accedere da nessuna parte, perché io lì sul momento non l'avevo fatto. Però Presidente, non capisco. No, non torno i conti, però adesso, allora senti, io però brigadiere, le ho fatto la domanda, era più specifica. Lei invia i filmati al suo superiore Bartoloni? Sì. Lei allora scusi, lei fa dei filmati all'interno della sede della CGIL durante la fase dei danneggiamenti. Questi filmati, lei ha redatto sui filmati una nota di accompagno, una relazione? Sì, noi facciamo il fascicolo fotografico. Allora? È stato fatto il fascicolo fotografico. Gli atti sono stati depositati. Dove sono stati depositati? Non ci sono nel fascicolo della procura. Aspetta, se non lo sa, perché io non... Allora, scusi, maresciallo, un attimo. Brigadiere. Lei fa questi filmati. Ha sottoscritto una nota di accompagno. Io sottoscritto brigadiere il giorno alle ore, sono entrato nella sede della CGIL, ho fatto io, perché io trovo un'annotazione che apporta, che è stata redatta da Bartoloni, ma che non riguarda l'attività svolta all'interno della sede della CGIL. E neppure cosa non sia stata mandata, che sia rimasta in questo non. Io faccio. Allora, lei ha relazionato oralmente al suo collega comandante? Sì, ho fatto il sunto di tutto quello che era successo. Se interrompo, però perché temo non è per creare confusione. Ho fatto in realtà, no, scusi, non è. Sto interrompendo col tribunale, non con lei. Dalle testi, infatti, adesso facendo riferimento a Barone, che è quello che ha fatto l'estrapolazione delle immagini, da atto di averlo fatto sulle, diciamo, diverse fonti, tra cui un video dell'arma dei carabinieri fatto col telefonino, che è quello di cui ci hanno parlato i testi, che è quello che è stato utilizzato per estrapolare l'immagine. Quindi allora, questo dato c'è agli atti, non è che non c'è, ed è un dato conosciuto. Allora Presidente, scusi, quindi se no creiamo ulteriore confusione, come se fosse stato fatto un video con i telefonini poi no, sparito. No, quello, no, la confusione la sta creando lei, mi scusi, ma non per mancare di rispetto. No, okay. Noi stiamo parlando di filmati che sono stati effettuati all'interno della sede della CGIL durante i danneggiamenti. Sono in realtà due forse, non si ricorda. Un attimo. Sappiamo che alcuni di questi filmati sono stati inviati, ma non c'è una nota di accompagno, non c'è una notazione di servizio, non c'è nulla, sono stati messi nella disponibilità della Polizia di Stato, che però poi li ha elaborati, hanno fatto anche delle clip, quindi hanno fatto dei tagli e abbiamo di fatti in alcune parti di questi filmati lo stemmino dei carabinieri. Non ho mai rinvenuto all'interno di, non solo di questo fascicolo ma anche del processo principale, le annotazioni di cui stiamo parlando. C'è un'annotazione datata 18 febbraio 2023 di cui ci dà conferma il testo, mentre le annotazioni, le note di accompagno a questi filmati non ci sono. La questione, presidente, mi perdoni, soltanto per una questione di chiarezza, è questo quello che voleva sostenere l'autodidatta avvocato di se stesso Patrizio Di Curzi, cioè io vorrei vedere questi filmati. Credo di averne reperiti un paio, in un altro, poi farò un deposito se il tribunale mi autorizzerà, non sono riuscito a mandarli in via telematica perché sono molto pesanti. Non riusciamo a reperire quelli fatti all'interno, e quindi quelli fatti all'interno dal brigadiere, mi perdoni, lei l'ha fatti col suo telefono, no? Sì, l'aveva fatto col telefonino, ma... Ma ce l'ha ancora quel telefono? No, se no già l'avrei detto, perché ho passato tantissimi anni un vecchio telefono, ma... però io le ho passate, le immagini le ho date. Ma la memoria, nella memoria non è rimasta traccia di questi filmati, anche cambiando telefono, io in non genere? Non ce l'ho. Non ce l'ha più non questi filmati? Perché era un vecchio modello e quindi non riusciva a... Sì, avvocato, però mi ha chiesto oggi, capito, di, appunto, io ho fatto portare ci sono, ci sono, eccetera, per vedere, io pensavo che oggi dovevamo vedere questi filmati. Assolutamente sì. Allora, quelli che ha fatto lui non ci sono. Non ci sono negli atti ed era ciò di cui si lamentava l'imputato. Aspetti, poi presente, troverò. Spero. Io devo fare... Vabbè, ma un rinvio sarà dato, spero, per la discussione, no, quantomeno. Allora, oggi vorrei far vedere due filmati al brigadiere. Allora, al brigadiere glieli vuole far vedere. Al tribunale quando vuole possiamo stare quando tutto il tempo che vuole. Ma volentieri, presidente. Allora, ma anche per fare delle domande al brigadiere. Allora, io potrei chiedo che sia proiettato il filmato prodotto alle precedenti udienze, che si chiama consulenza tecnica, che è stato redatto dal dottor Antonio D'Amore, che poi sentiremo. E in realtà è un filmato breve di un paio di minuti, ce n'è anche uno che è cosiddetta clip W1. E si vede pure, ma io poi ho visto, io ho le matrici di questi filmati, quindi poi... iniziamo con la clip W1 allora. Tanto vediamo se è la stessa persona che l'ha incontrato. Se vedo, mi posso ricordare, ormai sono disponibile a andare. Cioè, ma sono disponibile. Allora, prego. Si chiama il file si chiama clip W1. Ci abbiamo una copia in più? È una chiavetta. Allora, mettiamo la chiavetta. Però agli atti già del processo sono depositati. Prego. Comunque mi piace questo. Interessante. Simone Sabatini. No, di Nanna. Questa non era, No, questa era la scena. No, scusa, non era. Avvocato di Nanna. Vediamo se è la stessa. Vabbè. Allora, mettiamo. Però se no anche lì. Come vediamo. Avvocato, si alzia, io con l'ambito. Io con i computer. Io non ce l'ho un tecnico. Io potrei anche. Vorrei io. Se vi concedete faccio io. Allora, io l'unico esperto che ho è lui. Sono negato. Allora, la polizia. Allora, però questo che cos'è? Immagino sorveglianza sul genere, no? sto restituendo la sua biglietta. Sì, però non... Allora, quello che ha aperto, mi scusi signorina, quello che ha aperto, dottoressa, è... Sì. Come si chiama il file? W1. Clip W1? Sì. Allora, questo, qua dentro, sì. Allora, questo è elaborato dalla polizia scientifica, prendendo anche frammenti dei filmati fatti dai carabinieri. Non tutti. Lei questo vuole vedere? Questo sì. Quindi questo ce lo fa vedere tutto? Tra 4 minuti sono così. Se ce lo fa... Prima o poi lo dovete vedere, però. Dove stava quando succedeva tutto questo? Noi eravamo dietro, la... Non so. Noi sono atti così violenti, non intendevamo, sono i battaglioni che devono poi provvedere in maniera anche su. La devi parlare di no, registriamo. Eccolo, vedete, adesso va. Completo dell'apertura del portone lo si trova nel filmato che telecamere interne denominato ingresso portone. Poi non ci sono telecamere sopra. Però questo già l'abbiamo visto, non lo ricordo. Sì, e adesso la parte finale, cioè. Quanto sto per un minuto. Questo però non sono mai riuscito a identificarlo, non abbiamo mai saputo di questo, abbiamo provato a mandare immagini ovunque, però nessuno mi ci ha detto niente, perché comunque il nostro piccolo collaboravamo con tutti, con la polizia affinché. Allora qui siamo nella fase ormai in cui i carabinieri sono schierati all'esterno e lui esce tranquillamente. E qui, per esempio, questo, e qui si trova insieme al suo amico o complice, poi che uno rimane all'esterno e l'altro entra. Quindi la domanda qual è? La domanda è intanto se lo riconosce, perché lei ha visto il filmato clip W1. No, sto vedendo adesso, non riconosco nessuno, non ho mai visto in vita mia. No. Allora, lo so che non lo ricordo. Allora, non che. Scusi. La persona di cui abbiamo parlato prima. Sì. Allora, lei. Abbiamo parlato prima di una persona che lei ferma all'interno della sede della CGL. È la stessa persona che abbiamo visto. Lo soggetto è lo stesso. È lo stesso. Lo riconosco, cioè non lo conoscevo, l'ho incrociato all'angolo quando ho visto questa cosa, ho detto Maricella. Perché nel mio interesse era fare meno danni possibili, perché non pensavo dentro perché avevo timore. Perché no, però scusi, far meno danni possibile. Lei alle 17.34 minuti, lei incontra il soggetto W1 alle 17.34. Ma se la interrompo. No, no, no, mi faccia fare la domanda. No, il termine incontro, io non è che l'ho incontrato perché sono. Lasci pensare che lo conoscevo, cioè io ci siamo. Brigadiere. Cioè, no, giusto per evitare allora. E ogni dubbio, chiedo scusa. Bisogna fatto esatto, chiedo scusa, allora. Chiedo scusa perché. Allora, lei incontra, questo è ripreso sia dalla telecamera ex Bancomat che sia dalla telecamera della scala principale, incontra Arcangeli alle ore 17.34 e 39 secondi. Appena 39 secondi prima, alle 17.34, possiamo anche vedere il filmato, è il filmato in video ingresso PT, lei incontra Franceschi Lorenzo, che può anche non conoscere, una persona che sferra, aspetti, che davanti a lei sferra un colpo con una mazza contro una vetrata. Ma qual è la domanda? Non è che così si fa l'esame del testimone. Presidente, abbia pazienza. Ha detto, aveva detto. La pazienza che ho ha un limite. Va bene, ma no, perché ha detto. Come si fa l'esame? Così. Ha risposto. Deve fare le domande. La domanda era questa: come mai lei, che dice di aver fermato questa persona, ma non identificato W1, per non fare danneggiamenti o altri reati, invece rimane passivo? Davanti ad altri danneggiamenti. Posso a cui no, no, no, no, no, deve rispondere a cui personalmente ha assistito. Posso dire una cosa io al contrario? No, io deve rispondere. Io non ho fatto questo perché comunque restiamo sempre in un attimo di ordine pubblico e di agitazione totale e io ero spaventato perché quando mi sono trovato all'interno. Io ero comunque. Senta, ascolti, non sia ridicolo, era spaventato, lei fa questo di lavoro, ma non sarà la prima volta. Sta a Roma, tra l'altro, le manifestazioni di questo tipo sono alla portata di un'altra. Io, e per cortesia le dico con tutto buon cuore che veramente ero spaventato perché è la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere di attività così. Vabbè, allora la verità è che io non mi sento. Perché ha incentrato l'attenzione siamo soltanto su questo quando invece perché c'erano perché quello lì ho visto che avevo messo qualcosa e ho detto, vedete, questo si è preso qualcosa che ne può fare qualche utilizzo nella mia testa. Pure se fosse stato in quel momento non era la cosa che, certo, che più la doveva preoccupare, no? Perché era la violenza, la forza, stavano spaccando tutto. Io le domande che ha fatto il presidente sono per me, chiudono le sale. Ah, allora vedete? E ora basta, finito. Per me sì. Perché? A meno che non c'è un altro.